Pronto? Ah, Spagnolo, sì. Se riesco, la prossima settimana butto sulla pantenna. scazzo, letto, come andare sempre ad accordare. Sì. Devo andare con l'accordatore. Ok. Sentono modulazioni sottofondo? Sì. Quindi è tutto lì. siamo martedì, perché ho ricordamente quando ero con la vita, quindi non so se mi danno l'idoneità o se mi danno altri giorni, capito? Se mi danno l'idoneità sicuramente da mercoledì sono a lavoro, però se mi danno un altro po' di convalescenza, volentieri, sa. Sì, capo, sì, va bene, dai. Va bene, va bene. No, ti portavo a vedere quello Marco. Marco deve avere niente delle bombarde, guarda, veramente è un qualcosa di eccezionale quel Marco lì, Veramente bello organizzato. Ma dove c'era l'ex, come si chiami? Era un coso penitenziario, insomma, di cose, era un carcere, dove c'è il centro studi universitario lì, quel parco lì, su giù, prima di arrivare alle bombarde. No, proprio alle bombarde, in mezzo alla pineta, sono circa 4 ettari, dentro c'è questo parco divertimenti per bambini, per grandi, addirittura ci sono, all'interno ci sono questi chioschetti con i barbecue, no? Se per dire un gruppo, una famiglia si vuole organizzare, passare una domenica o fine settimana in tranquillità, te ne vai lì, ti porti la roba da mangiare e ti fa pagare soltanto 5 euro a persona, però c'hai il gazebo, tavolo, schedie, barbecue, cosa vuoi di più? Vabbè, in fin dei conti conviene, perché se 5 euro a persona è una grandissima trattata, quindi sicuramente conviene. Avanti, cambio. Ok, buona estate. 351 più cordiale dalla stazione Sierra Charlie in Nordo Sardegna. Buonasera amico dalla Canaria. Adelante. Mucho bueno amigo. Ok. Un momentito che amico qui dalla stazione della Nordo Sardegna. Claudio, avanti. Io lo sento basso però. Lo sento basso, tu lì vicino al mare sicuramente lo senti molto, molto più forte. Buona estate, collega della Ida de Spagna, aquí Estación Radio Sparviero, la Sardegna Italy, cambio. È sparito. No, lo sentivo Santiago 7, Santiago 8 qua, o passino di radio. A chi tuo amico dalla Canaria, se vai scucciando la Nordo Sardegna. No, è sparito, vabbè, no qui. No, va bene mica. Cazzo, quello cioè, quando ti organizzi, poni in caso, che si inizia il 7, 9, 10, fai un po' di spesa. Per dire, dimmi la spesa. Quindi qualcosa, cazzo, fai una giornata in pineta, veramente alla grande, guarda. Me lo immagino. No, ma già va bene, perché quando c'è la comodità del tavolo, le sedie, col gazebo, così tutto organizzato, è chiaro che viene una bella cosa. E come hai detto tu, sei in 10 e ti viene una tronzata, capito? È bello, perché io non piace per esempio andare in spiaggia seduto in terra a mangiare così, no, cosa fai meno, io tutte le volte, guarda, tranne quest'anno perché sono un po' in convalescenza, mille casini, eccetera, ho avuto un sacco di spese, no? Ma gli altri anni facevo l'abbonamento a Lido di Platamona tutta l'estate, 370 euro mi veniva, tutta l'estate. Lo facevo da maggio a settembre, capite? Ma scendevo lì tranquillamente, c'avevo il mio posto, non avevo bisogno di sdraie, gatredi, c'avevo il mio posto assegnato, quindi arrivavo a qualsiasi ora e mi prendevo il mio posto. Poi all'ora di pranzo lì c'è il ristorante pizzeria, una bella pizza, Shit. favorito. Chi è che chiama un attimo? Sera. Chi sei, Giuseppe? Non ho capito chi sei, Giuseppe. Sinceramente, tutta la c'era a casa, facendo un po' di pulizia per radio, metterò a posto Giuseppe. Dove sei? Sei sparito? Capito? No, c'è bello, c'è bello. c'è la possibilità di andare, Giuseppe, già conviene stare un po' al sole, perché fa bene, soprattutto come me che soffro molto di dolori, capito? Fa bene sicuramente. Ma lo vedi lì all'alghero o nella zona di Sentino? sempre. Va bene, intanto si è arrivato. ci sentiamo dopo, ma ci vuoi entrare, Vito, che domani non lavori, siamo qua. A te Giuseppe, vado a cenare. Ciao, un abbraccio, a presto, grazie delle due chiacchiere. D'accordo, d'accordo, se coincide ci sentiamo domani per un brasiliano, dai. Ciao Giuseppe, buona cena con tutto, saluti a casa, a presto. Traffico, la parcheggia che sei a posto. Lo so, Giuseppe, lo so, sì, che è così. Te lo saggio, però io quella macchinetta che io me li fanno bene e quindi non ho bisogno di molto. Te l'ho detto, ci stavo riprovando, però alla fine non me la tutti nulla, capito? Va bene così. Vabbè, grazie, sempre. Per quello che ti è successo a te è meglio che la moto la lascio da una parte, perché diciamo l'incidente che hai avuto tu in moto, toccandoci i balloni, sei vivo per miracolo. Già disco. No, ma non mi piace troppo, capito? Proprio mi piace, soprattutto c'è caldo, fare una bella passeggiata, uscire. Uscivamo sempre con Franco, con Gianni, avevamo sempre 4-5, la domenica mattina. Però purtroppo non lo posso più usare, con questo problema che ho, non lo posso più usare. Vabbè, pazienza. Vabbè, pazienza, grazie. Ci saranno tempi migliori, dai, che le cose quando verranno al suo tempo, piano piano, e niente, ui, meglio, vabbè, meglio così, almeno risparmi di una cosa e risparmi nell'altra, capito? Specialmente nell'altra, che è la cosa più pesante. Con i tempi stanno girando, non ce lo possiamo permettere. Ci conferma, Giuseppe, ha detto proprio bene. Non fa. È troppo triste, guarda, non te ne continuare a parlare. Oggi mantenere due macchine, una moto, piatto una vedina. Allora, va bene così. I tempi belli sono passati, adesso ci dedichiamo altro. È molto poco, non si è sentito? Negativo. Ha detto molto poco. Ma dopo l'ho entrato ancora. E se sta mangiando, boh. No, ma lui già mangia presto. O sta guardando la partita, proprio lì. C'è un bel di coso, c'è Claudio, un bel di preparazione. Ma è sporca però. È sporca. Capito? E preparazione sporca, ha molto quello in mantelli, no? Sono chiari. Cioè, sono occupati tutti i canali, tutti, dal primo al 40, sono tutti occupati. In FM, USB, LB, cazzo, uno può fare un discorso, cazzo, che non riesce a trovare un canale pulito. Vabbè. Tempo suo, Giuseppe, capito? È il tempo suo, quando inizia l'estate, inizia anche la propagazione, cosa vuoi fare? Vabbè, là, e poi a dirò quella questione, deve essere qualcuno, deve essere, e gli hai mai capito già, vabbè, va bene così, dai. Vabbè, Giuseppe, ma fottiti. Oh, che disastro, cazzo, proprio in questo periodo mi devo troncare il collo, io vado al culo, via. Mamma, c'è domani, poi martedì, ho la visita, devo trovare 8 mesi di fisioterapia, e me la passo al mare, ma al mare, farò una tanesia. Fai bene, Claudio, fai bene, va. Approfittare adesso che le giornate si stanno facendo questo caldo, dunque l'unica cosa è andare al mare, rilassarsi, e andare, come ho detto, cioè, la mattina presto, alle 7, essere già lì, hai capito? Essere già lì, già ti prendi quel freschetto bello. Tu sei. Tutto il mondo. il ciardo, cazzo, figurati l'inglese. No, no, no, non potete rispondere qua, già mi difendi una PFI. Ne ho, un 200 di queste le inglesi. Tutte. Già mi difendo. Già mi faccio capire. Ma qua mi dice che mi ha fatto un deluso. È inutile fare il collegamento e poi cosa vuoi fare a confermarglielo? Invece anche F fare via Bolo, che praticamente via associazione viali, e quindi tu porti la questione in sezione, si arrangia la sezione e poi l'hai direttamente, quando arriva loro trasferisci a casa, capito? E confermi il collegamento, non vero già che tu confermi. Ciao, sì, 73, bye bye, thank you very much. E beh, è osservato. Come fai a dire che l'hai collegato? Ci vuole la carta. E si conferma, vabbè, era l'importanza quando arrivano quelli di Roma, Venezia, Milano, che è la popolazione bella chiara, allora puoi fare qualche piccolo discorsetto, ma con questi Nisma. Certo, se non cambio questo microfono esce. Ma di tu si dice? Si conferma Claudio. Vabbè, pazienza. Vabbè. Allora, lasciamo perdere, sono quasi in peggio, eh. Peggio. Ah, Luci, quasi in peggio. Beh, non lo sai. Ah, sai che vado peggio. Arrivato a un certo punto. Io in casa, vabbè, tutto il mondo di civile, oi, per carità, lasciamo perdere noi per la nostra strada e gli altri per la loro strada, hai capito? Cambio e compro e vendo. E infatti i tedeschi sono tutti in Germania, Giuseppe, non sono in Italia. Sì, ma io non mi riferisco a quelli di Germania, hai capito? Agli altri. Ah, gli italiani sono fitti, riferisciti. E si conferma. Ehi, si va a fare la salita mia. Sono un attimo, prima o poi. Che non si ferma, io ti assicuro di un gamba un gruppo. E vabbè, sei convinto che io mi lascio andare. Venne io e te, altra del loro. Oi, cazzo. Ma non ne ho bisogno di quelle cose lì, hai capito? Non ne ho proprio bisogno. Dunque, io quando non voglio entrare in baracchino, lo sai dove vado, punto, e mi diverto, il triplo mi diverto lì, capito? E dunque, mi faccio le 4 risate, 5 risate, e voi faccio il favore a mio fratello, e faccio la giornata così, capito? A me non mi diverto, a me non per gli, gente che ti fa di un coso di proprio sì, con le, te li fa passare, capito? E già ti ho capito io, sì. Però mi è piaciuto stamattina Santoro, mi ha detto di tua pietrina. Io non lo posso permettere e tu no. Certo, la visita a me l'hai visto, ma già tu vuoi la spavisatina della galleria a Latini. Che te l'ho preso? Ma tu? Io non lo posso permettere, tu no. Tu bevi la birra, io invece bevo Jack Daniel. Ma è qui già visto un ragazzo alcolizzato, eh? Sì, vabbè. È così qua. Io non ho io dico questo, la morte non la guarda nessuno, ma però se continua così, lui ha tanto di un mese e mezzo, due, ci lascia le penne, e questo è garantito. Quello? Ehi, come si fa a bere quella con la schifezza a mezzogiorno, che si viene a 30 gradi? Ma ammattici, però non mi ha più fregato, quello è proprio partito, è andato, capito? Troppo, è la vita. a casa sua non lo vuole vedere, la moglie non lo vuole vedere perché sa che è con le condizioni e lo preferisce soccombere, capito? Mandatelo proprio a quel paese, capito? E vai a mandarti un cazzo con le mani tue. Vabbè, secondo te cosa c'ha tolto la moglie? Aveva 62 anni, ma non aveva 80. Ma come si fa, cazzo? Per carità. Io l'ho conosciuto attivo quell'uomo perché era ragioniere del capo lì al comando dei vigili del fuoco. E quindi, insomma, aveva anche una certa cultura, però è un alcolizzato, cioè no. Non puoi passare il tempo così dalla mattina alla sera sempre un bicchiere in mano, che ma non ti andi. Poi per me dopo la schifezza, cucciche. Io avrei preferito, guarda, te lo giuro, cazzo, non posso arrivare domani. Vediamo una bella cottura, una cottura a vino, che almeno che quella roba là, hai capito? E che almeno, cazzo, il vino, io sono convinto che il vino non ti fa mal di testa, ma quella roba lì, cazzo, ti distrugge, cazzo, tutto quanto. Sei stato vecchio, quello te la mangia il fegato, Giuseppe, quella non è cosa da bere, quella è cosa schifosa, avanti vecchio. Buonasera a tutta la volta, qui Antonio Forchetto dalla città di Sassari. Ciao Antonio Forchetto dalla città di Sassari, buonasera. Claudio Spaghiero, compagnia Giuseppe, avanti Giuseppe. Buonasera, signor Forchetto dalla città di Sassari. Buonasera anche a lui. E allora, signor Forchetto, cosa ci racconta di bello? Caldo ne fa? Allora, per il caso di dica, sta facendo caldo. No, stavo andando un pezzo alla Germania, ma poi è una schifezza. E allora, zio Claudio, buonasera, ben ascoltato anche a me. Anche io stavo guardando un pezzo alla partita, ma ho spento. Perché il televisore me l'ha legato, ha detto la tutto, sono al buio. Manco Faretti, ha acceso niente. E siamo qua, fare due chiacchiere con Giuseppe, in attesa che entri qualche un altro, è tutta, e vediamo di qua, tanto. Non si può fare niente, a rilassarci, e buh. Beh, ascolta, ti volevo chiedere una cosa, ma è vero il fattore, mi ha fatto un controllo Fabrizio l'altro giorno, con la radio di selezione, si può dire, là. E mi ha detto che se io mi spostavo con il carter appena sulla destra, lui mi risolveva meglio. Ah beh, con la radio HF io sono stato un baracchino, non me ne accorgo. Ma con la radio HF già te ne accorgi. Se ti ha detto che sei leggermente spostato, i baracchini sono tutti così, capito? Io tutti quelli vecchi che ci sono leggermente tutti spostati. Però se ne accorgi uno che c'ha la KF, capito? Ma non è niente di grave, no? Tu. Sì, positivo, però volevo fare una promessa con te, zio Cla. Guarda, adesso mi sto spostando come ha detto lui. Ecco qua. Cambia qualcosa? Sì, leggermente più cupo, e quindi sei leggermente spostato, ti conviene metterlo come te l'ha detto lui. Sì, sì, appena si è spostato, se ti sposti col Clarifer ti ascolto meglio. Sì, ho capito, però con la radio, ecco, adesso io ho messo qua al centro e dovresti ascoltare meglio con la baracchina. Però con la radio che aveva lui, la sera mi ha detto che ero leggermente spostato, non ero proprio centrato, capito? Volevo fare la provetta con te, vabbè, se stai usando un baracchino lui, perché al baracchino te ne accorgi più di tanto. Però spostandomi, con la radio professionale, tutto qui, con le radio diciamo, normali non si accorgono di questa differenza, dentro la capito. Infatti io te l'ho detto, io sto parlando con questo, ma ti sto ascoltando con 4.40. E anziché essere 27.075, se ne vai a 27.075. concentrato. Vedi un po' adesso il club, l'ho spostato leggermente, vedi un po' se sono centrato o spostato ancora. No, adesso sei centrato, perfetto, 27.075. Porca miseria, come mai questa differenza? Gli oscillatori sono che con il tempo si spostano leggermente, ma non è niente di grave, un'altra tratta, lui già l'oscillatore di frequenza, gli attacca il frequenzimetro e le fa la taratura del trimmer, è un trimmerino piccolino, bisogna metterlo giusto e tu sei a posto, capito? Sì, infatti adesso mi metto come era, perché ovviamente parlavo con gli apparati. Adesso sono centrato, nel senso centrato che poi sono fuori frequente. Mi ha detto, infatti, Fabrizio, portalo, che è una cazzata, te lo faccio davanti e te lo metto, capito? Sì, bello, c'è la documentazione, è una fesseria a fare. Me l'ha detto anche a me. Io cazzo li devo portare a uno, ma giù 7, 8, 9 con questo. Però sono tutti leggermente spostati, capito? Magari questo qua non è ancora tutto, no? Però gli altri, quelli vecchi, sono tutti spostati. Ah, ma tutti nulla, giusto per fare due chiacchiere, cosa? Sono radio vecchi. Se sono vecchi, sono vecchi, no? Sì. Capo di volta, allora, rilanciamo il mic a Giuseppe che era tutto affumicato l'altro giorno. Amata Caravaglia, qualche. Dovevi vedere la macchina di Giuseppe il giorno. C'era più fumo nella strada che nella macchina. Tu, dove sei tu, non c'è nessuno che c'è il baracchino lì, eh? Hai capito? Io ne ho... Pronto? Facciano benissimo, Giuseppe, propagazione, caro. Sono con la 48, se c'è qualcuno c'è, se ne sito della radio. Non c'è nessuno, no. È propagazione, capito? E a me che non mi ascolti, ando bene. Aspettina. Non so mai dire niente da dire, del prato, lo sai, se ci sono problemi te l'avrei detto. Tutto va grande, però non vedo il motivo che Giuseppe prende il colpo, ma racconti di già, tappati Giuseppe, tappati! Ora di guardia Giuseppe. Dimmi qua. Stai prendendo il colpo, muovi di guardia, tappati! Metta povoramente le nocche, e non le vuoi i guantoni. E io ti darei il pacchetto, dai il guantone qualche. La prendo anch'io, dai, la prendo anch'io. No, Giuseppe, è popolazione, dai, non ti spaventare, perché la tua radio è bellissima, dai, da quando ho messo mano Gian Flavio lì, tu sei rinato, Giuseppe, sei rinato. Che capa, adesso do la benedizione a tutti, al sindaco di Proaghe. Ma erano già una mezz'oretta a rompere le palle. partecipato una volta lì a quell'incidente che era successo lì in Piazza dei Signori, che c'è stato tipo la, con la ragazzina Minimino, l'ultimo tipo che aveva preso questa donna con un bambino, guarda, era da paura, era da paura. E c'era proprio, il giorno c'era, mamma, il padre, Natalino, e già ne più giù. Ma tu devi vedere cosa cazzo ha fatto questo tipo con la macchina, guarda. Che sabato notte è sempre così, capito? Soprattutto adesso è tardi. Non è fissa una pattuglia, non è fissa, anche quella di vigile urbana non fanno un cazzo, no? Capito? Che c'è notturno anche notturno adesso di vigile urbana, no? Non è di sì. E vedi che passano anche lì, perché è uno schifo, capito? C'è un anno anche che abbia una bucata d'aria, deve aspirare tutti questi gas delle moto, ci vuole la corrida, un casino, un cazzo, non ti dico. È durata una mezz'oretta, è passata la partita del 113, adesso è passata tutti le macchine, e dopo se n'è andata, dopo poi è tornata a passare, insomma stava, e quindi si sono calmati tutti quanti, ma la testa cova con le macchine, il cazzo a mille, ma è una di Monaco lì, che cosa è un autodromo, dice. Cioè la gente va lì per stare un po' tranquilla, cazzo tutti voi, hanno una macchina in macchina, cosa andava a motivare a farci. Sì, infatti, si usava tanti anni fa, scende la scala di ciocca, ma tantissimi anni fa. Adesso neanche quello fanno più. E vabbè, cazzo di erro, però. È uno schifo, capito? È uno schifo totale, no vabbè, bisogna che ci diano una calmata, perché c'è gente a piedi, c'è gente passeggiando, ci sono bambini, cazzo non ti dico, rimani tanto, ragazzi, le macchine, testa a gola, ti dà una frena a mano, un fiato di gomma bruciata, che fai non è di vergogna, per carità che animali, cazzo, riprendi io sai che vado a bere. Appa, beh, giustamente la gente si riparte in quella maniera, altro dipartimento non è, cioè lo ha fatto cazzo come Dio comanda, a Blocchetti, a rimetterci a piazza Blocchetti, vedi che è passata pure la fantasia. Sono macchini perché giustamente, come ha detto Dio Claudio, lì la gente va per farsi una passeggiata, portare i bambini, per una boccata d'aria, cioè non vedo il motivo il perché debbano mettersi con queste vetture a fare i pazzi come ne ho visto, cioè è una cosa assurda, dai, non esiste proprio. Lì ci vuole più controllo, come ha detto Dio Claudio, qualche pattuglia ogni tanto, 5-10 minuti, una pattuglia lì, e vedrai che la gente si calma, tranquillo, sereno. Appunto perciò, lì ci vorrebbe un posto di friccio, una pattuglia, che controlli il sabato notte, che controlli tutta quanta la situazione. Vedrai che a parecchia gente, le macchine da capo, ne avevano fatto uscire. Ha cominciato a sequestrare un po' i patenti. E vedi che allora la cosa cambia. Facciamola. Positivo. Vabbè, io vi lascio 2 minuti che ho le 4 zampe che mi sta assillando che vuole portarlo giù là. Ciao Pomponi, ben ascoltato anche a te, ogni tanto si riascolta, Sì, caro, andiamo a guardare a fare l'amore, ci muoviamo tutti, facciamo, che bello. Va bene, dai, già le prendo subito, dai, porto il 4 zampe e sto salendo subito. D'accordo. Avanti, demonio. E che ti ne misere? Eh beh, io pompone, no? Mi sono mangiato un paio di gelati, a rinfrescarmi la canna. Fatto bene, e io ho cenato me, come già detto, una tazza di latte e sono a posto. E non so se è latte, vai. Se ben guardate va giusto giusto comodo. Ti viene il coso, la colite. Allora, una volta quando bevo il caffè, facevo un tempo giusto giusto bevendo il caffè, dopo due minuti andavo in bagno. E adesso anche la deve fare un sacco, adesso pure di colite, capito? E quindi non ne bevo mai. Di solito la mattina quando prima di andare alla cosa a lavorare mi piglio, mi faccio due toast, mi riscaldo nel fornetto e me ne mangio. E poi quando esco vado a casa, mi rizzo e bevo una bella birra fresca lì, ogni mattina alle 11. Dopodiché mi prendo il capo per dire se non c'è niente da fare, se no già mi faccio venire a prendere e vado a tabaccare. Ma domani devi lavorare, Antonio. E domani sono sempre via di Poro, non so. Alle 11 esco. Se vuoi venire ci vediamo in Gazzetto. Che beviamo una cosa, io sono vado via a casa intanto alle 11:10 stavo lì, una cosa del genere. Anche perché esco prima, 11:15, e entro alle 7:35, quindi alle 11 sono lì da a casa, ci pegano 10-24 ore a salire. Ma dentro di Porro così? Sì, dentro di Porro siamo noi. Se ce la faccio domani mattina ti faccio un salto, là. Se ce la faccio, non ti prometto niente, però se ce la faccio passo. Vabbè, non c'è problema per quello, sono lì. Tanto non è che faccio, non penso che facciamo molto, ma dopo il giorno abbiamo fatto quasi nulla. Era proprio in tre. Facevamo come gli impiegati del comune. Finito il lavoro alle 9, ci siamo seduti, ci mettiamo a parlare, eccetera, eccetera. Invece gli quelli del comune stavano bevendo la birra alla parte opposta. E vabbè, là. Claudio, ci sei? Hai rientrato? Già sono qua. È entrato molto pompa. E già ci sei, sento che sono pericolite. Io adesso è diversa, io sono l'incurite. Incurate al limite. O piccolite. E incurate. Ti auguro che non ti fai incurare quando vieni a lavorare, no? Ci mancherebbe solo quello adesso. Non basta il colpo che hai preso a un fianco. Ti manca solo quello del sedere. Yeah. Terapia, sai dove la fanno? La fanno qua alla, dove c'è il sanatorio, la fanno anche gratis. L'avevo fatto fare io fuori a mia madre e l'avevo fatta a Zari. Mi sembra che la fai ogni due o tre volte a settimana, se non mi ricordo bene. E la fatta, la fanno gratis, poi dura un quarto d'ora neanche. Figurati. Guardi, buon burino, con la buona sera. Vai, ammazza, che ci devi fare, ah? Ormai non mi butti più, mi hai preso, anche se fai la voce da femminuccia, eh? Ormai non mi butti più. Perché non la voglio fare io, se no già ti fuoco. Ui, lasciamo perdere. Una volta sola mi ha buttito una persona, a me. Ma non ci sono più cascato. Ah, vero, io sai. Buonasera, Claudio Sbarbiero. Ciao, buon lì. Buonasera a tutti, dai. Ui, avevo mangiato un vaso in giro e ne sto rientrando. Un giro entrante che sei fatto? Tanto voglio. Tutta. Ecco, un giro entrante hai fatto? Ma che giro entrante, in questa zona così, camminando. Ho fatto un giretto, sono passato da un amico e poi eccomi qua a casa. Ah, certo. Pensavo che era andato, fatto un giro entrante lì a Centro Studio, che ho fatto una passeggiata. E invece non ci sei andato. Chi sono vanno in giù? Io ci vado spesso lì anche perché vado la lucciola, prendi la birra, c'è Romano, c'è... Diciamo, quelli che conosco, capito? Intanto vado a sfruttare a Buonaria, dico a vedere se ha trovato qualche pizzeria da sverginare. Hai capito? È un bomboli, cazzo che Antonello è maniaco. La cara che sta a Buonaria. Ora, avanti, Bibi, questo mi sembra di Massimiliano. Si sbaglia. Sembrava il bimbo di Massimiliano del barchino, invece non è lui. Avanti, avanti allora, avanti. Comunque il media l'ha modificato. Ma questo non è arbitrio. No. C'è solo il bimbo della radio e basta. Microfono, non della radio. Tanto di anche aggiungere anche molto. Tanto c'è il bimbo solo se passo la calamita. Se non faccio anche la vita, non è infatti, quello. Ti hanno liberato in pratica le quei bip si sono collegati assieme, in serie. Vai, vai. Vabbè, vabbè. Non c'è problema. Ho cambiato i bip. Ma chi era l'altro? Sandro. Sandro, tu sei? C'è Sandro. Ma chi era quel bimbi? Pedro! Ah, Vicente! Gli accendo sì, Maello! A te, radio, a te! Già l'ho sentita, già, la radio. Tanto si ripete il subwoofer a quel microfono, sai come si sente la mia? Si sente pure il culo da pure la musica. Bianchino comunque la tramata l'ho a capa Mister Paolo, con la buonasera. Grazie a voi, sono Bevo io, sono Corre Stellari. Non è piacere che il parlante, ma proprio mi disintegra perché c'ho la colite, non lo posso bere. Mi disintegra proprio, cioè dormo in bagno, a parte gli scherzi. Dormo in bagno proprio, mi fa un bel male, infatti non la bevo mai, capito? Mi piace il caffè macchiato la mattina, ma proprio per appena di schiumami, niente di particolare. Mi piace un bel segnale, sempre a fondo, Sempre forte, sempre bello forte. Beh, sei sempre così, dai. Ma cosa hai fatto? Hai giocato a pezzi, visto che ho vinto io. Sotto relievo c'era una soldatura che praticamente si muoveva e come scaldava andava in dispersione. Adesso gliel'ho saldato bene, gli ho tutti fatte le saldature bene sotto le lì. E sta agganciando che è una meraviglia. Anche a minimo e al massimo, a minimo e al massimo. Prima agganciava solo al massimo. Però a dire già in tutti i modi. Sono riuscito a girarlo sotto sopra, piano piano, viene male, viene tu, che sono messo dentro di cucchini a fare. Sono riuscito piano piano a aiutarmi, l'ho girato sotto sopra, ho tolto il coperchio di sotto e ho visto praticamente dove ci sono i tre furi dei piedi delle lì, che uno si muoveva, capito? Che uno si muoveva e allora glielo salvato bene. Ho riacceso, richiuso tutto, ma si è chiuso completamente, capito? Coperti e tutto. Ecco perché dovete faceva massa, visto? Perché c'era dispersione, quindi come le metti coperti, oltre lo stesso non fa contatto. E adesso se non riesci a andare, c'è il Q, comunque le dirò cambia malotte con gli uomini. No, io gli dissi la parola, sicuramente con lui quelle lì l'hanno montato, sicuramente non lo hanno male, se lo ricordo che te l'ho detto io, ho trovato subito le strutture. E si conferma, infatti c'era un piedino che era salvato male, come l'ha attaccato lui per pulirlo, per metterlo a posto, c'era una salvaffetta come faceva schiamata, faceva adesso si attacca al pisello avanti molto un po', ecco, cambiamo lo stesso di lì, non me ne frega niente, ecco, e io mi faccio andare subito, secondo me è cambiato, comunque almeno ce l'hai nuovo, sei più tranquillo nel caso che ti sia poi qualche schiamata dove sono i puntali del bebè. Avanti Antonio, mi pare, avanti. Dai Antonio, che sono entrato giusto per salutarvi, meglio che se li stavo ascoltando, devo andare a lavorare. Ciao Claudio, ciao a tutti. Ciao Fabrizio, scusami, ciao come hai sentito. Non c'è una musichetta da tringaro sotto. Ah, lo so. Guarda, conosci questo GB? Com'era? Striker, qualcosa del genere. Due notti. Beh, tre notti, l'ultima notte è questa qua. Esatto, poi c'hai due giorni di riposo, quindi ci prendiamo un caffè. E tra lunedì e mercoledì ci vediamo, perché non so se mi curriculum di domani, però comunque poi sono lì per qualche giorno. Ascolto, conosci questo Striker, GB Striker da base? Mi pare che l'ho visto da qualche parte con la via. Esatto, ce ne sono 80-120 canali con anni 70. Sì, l'ho visto proprio, ma non lo ricordo. L'hai trovato? No, sto cercando, ci siamo qua, ci sto scrivendo per vedere con l'amico. Uno è in, ho trovato uno in coso in Ligatro e non ricordo nemmeno. Dove gli altri mi sembra era in forse in Olanda, mi sembra forse in Olanda, qualcosa del genere, ecco. No, forse in Lussemburgo, mi sembra. E tu fai quello che devi fare, già ne abbiamo già parlato, per essere libero ci vediamo, vai tranquillo, guarda, non c'è nessun problema, te l'ho detto, vai tranquillo. Lei ha già. Vabbè, poi già, che vediamo, ecco, comunque quando salivo sul tetto ne smonto 40.000, l'avevo messo su, della macchina, comunque anche, dobbiamo vedere anche quella roba. E dico, la a che ora devi andare al lavoro? Adesso stavo spegnendo tutto, che stavo facendo, rispondendo a due mail al PC, e quindi stavo rispondendo a due mail, ero qui al PC e vi stavo ascoltando, sono entrato a salutare perché ho visto che stavo spegnendo tutto, così esco, cerco un bar aperto, prendo un caffè e poi andiamo alla Bocca a lavorare là. Ciao, Robby, dai, ci aggiorniamo domani, niente. Ci aggiorniamo domani, ti auguro buon fine serata, buon lavoro e buon tutto. Microfono per Giuseppe, così ti saluta, vai Giuseppe. Ciao Fabrizio, buonasera. Anche se ci stai andando a lavorare, un buon trabacco, cambio. Avanti Antonio, buon mulino. Ciao Fabri, buon trabacco, ce la risentiamo alle prossime. Notte a tutti. Ciao Fabri, buon lavoro, ci sentiamo domani, salvente. Io che ne, notte a tutti. Ciao, notte Fabri, alle prossimine. Gappa, gappa del rosmetro. Cosa stavo dicendo a te? Hai capito cosa c'era sotto? Che una serratura falsa c'era nei piedini del bere. Comunque il capello lo stesso per lei, sei più tranquilla, almeno per la mela, capito? Deve fare ogni volta pulire con la carta abrasiva che non lo trovi in balle, almeno ce l'hai nuovo e ti dura un bel po' di anni, capito? Cambia però, almeno sei più tranquillo, quello che ti te lo conservi al limite di una bella pulita e lo usi di riserva nel caso come campione, capito? Sì, anche perché una cazzata, senti che bella la voce adesso, la modulazione, prima era un po' tagliata, perché non si stava bene, era dispersione, quindi non era perfetta, se invece è una modulazione perfetta, no? Sto facendo benissimo, è proprio per quello, ma non ti scaldare la vento, è una cosa accesa così, ma giù un caso non vedi, dove se vuoi io, figurati, mi piace tutto lo spento, c'è solo il cavolo acceso, c'è basta, non so dire neanche se sta funzionando la ventola, perché non vedi tempo che non sta funzionando, è solo so quel tempo del notte, mille, se parla di diavolo con dove come, si è agganciato adesso. E io infatti adesso non lo spengo. Adesso non spengo tutto il baracchino e tutto. Ho visto che è a posto. E passo nell'altra sedia. E uso il 440. Capito? Se non questo fa troppo calore, molto calore. Ok. Giuseppe, vieni che cambio radio, cambio radio, no, io sono il ventilatore sotto la scrivania, capito? Che sta girando, infatti mi sta arrivando un freschetto al buco del culo. Ah, eia. Va bene. Avanti. Pier Paolo, ci sei? Sì, ci sono, non posso parlare. Perché non puoi parlare? Perché? Avanti, bombolino. Ciao, capo. Stavo leggendo. Ma Claudio, volevo dire di fare una prova a NHX, a vedere come ci fa. A vedere quanto è arrivato qua. Vabbè, sta cambiando radio, lo facciamo un altro giorno. Cos'è che c'è Pierpaolo, stazionaria? Ecco, non puoi stazionaria. 5. Avanti, buon morito. Vabbè, Barbero, fatto. Stava facendo il cambio dell'apparecchio, tu. Mi prendi motopompa. Cappa, non ci vuoi più lavare stasera. Nella realtà c'era un portiere di 27, stava bene anche il fuori interrazzo per dire. Avevo un cane, sono con quei belli, no? Appunto perciò, c'è caldo qua. Stasera stava tirando un po' di venticello qua, altro, ne ho approfittato a farmi una piccola pinichella, ma dalle 4 fino alle 6 è qualcosa, hai capito? Ci vanno un quarto, due ore, così leggeri. Sì, quella me la sono fatta anche io, ci sta, no? Non ho fatto il tempo, vado a, sono caricato dalle 2 e mezzo fino alle 4 e mezzo, 5 meno un quarto. Ero talmente stressato questo periodo che quando volevo dirmi sabato e domenica per riposarmi e stare tranquillo. Almeno questo sistema un pochettino. Stavo cavolando, stavo uscendo di testa, anche le macchine mi stavano aumentando. Mi sono messo la cosa l'altro giorno, sono lavato tutto e stavo scomparendo le macchine, stavo scomparendo, quindi era lo stress di questo periodo qui con tra il lavoro, un primo, un secondo, poi scendere la mia madre, fare la spesa a lui, cose del genere, scende di capo, lo scende. Capito? Prima o poi non è un bloccato, sono con l'acqua. Dimmi. Saturo, sì, la verità. Saturo? E un bel. Compresso, sì, Peppa. Aspetta un attimo, che compresso la modulazione. Fuori, qua non è tanto stazionario. Aspetta. Va bene, forse. È un po' sto fischiando, sì. Hai notato così? Cosa si è acceso il nuovo pinguino, il cornetto si è acceso. Il pinguino è lungo? Ehi, no, è c'era molto lunga, no? Corto, il pinguino dei corti, ci sono un po' da rivedere, ho fatto un altro giusto. prende pure e bevi, addirittura in sabato, no, che boh, se non me ne accorgo prende fuoco tutto, cazzo. E ci stava sciogliendo il commutatore. Ecco, ma non, ma questo c'è un buio, lo so, come quella detta G. No, mi c'è qualcos'altro, quella lì. Schifo, quel bello che mettono, scrivono un kilowatt, no? Se tu guardi quello quadrato che c'è a tre attacchi, un bombello rotondo, no? Ha preso un computer e ha scritto 1000 watt. Ma dove cazzo li tiene 1000 watt? E ne stavo dando 400, cazzo, si è sciolto. E il capo non mi piacciono le chiamme quelli. Non servono niente. Non c'è niente. Che ho detto che si fuga. Avanti, buon morire, prendi. Ma comunque ce ne sono tanti che erano buoni anche per la zia, sono in pochi che andano bene. Vedete, quello della Procter, quello è tutto fatto in ferro, vero? O in acciaio, cos'è? Questo massiccio. Proprio quelli tappeto ha fatto un buonissimo commutatore d'antenna la Procter, ma stai scherzando, tutto in ferro, bravo. Chi ce l'ha detto oggi in plastica? Bravo, un momento in plastica. Questa ghiera che ha dovuto amplificata, ti sono vedere che mi si è sciolto, cazzo, ma che burro non ha sciolto, oggi mi si incendia tutto. Vai Giuse, ya, mi stavo cazzo, mi stavo chiudendo gli occhi, vabbè, ok, riprendi Antonello, Pomponia. No, ma buono, già adesso ti stai addormentando. Ora il gabbo c'è qui. Mi ha dormito 2 ore stasera. Vabbè, ma 2 ore ero dormi e sveglia, capito? Non è che proprio 2 ore belle piene. Dormi e sveglia. Beh, dai, tu si immagini un bel. Piano piano ma frequente. Ma che anguria. Ti è venuta la sua moneta, 5 minuti. Poi ti sei spaventato, dice no, non è una cosa, non era mai quella. Giuseppe, non dormire, succhiati in ghiacciolo ogni tanto, capito? Cos'è la sua cosa? Una bambolina, eh. Una bambolina che gli manda i baci, oh, eh. Oh, io sospendo, ma o meno con questo capo di controllare la cosa. Se ci siete, mi prendo dopo. Siamo Pedro, siamo qua. Per caso blu è rimane sul blu, vero? Già. Mutatore, c'è quel colore di vista. Allora, non se l'ho caso quello tu, ma proprio zero sotto zero. Tu immaginate Giampaolo Silvestro, c'aveva l'altro modello, quello 4. E quando gli ho sono sceso io a portare la caretta, no? Gli ho dato io alle 4:30. Sono sceso a testare tutto. Cazzo mi ha detto, mi questo è come fatto l'antenna, attacco l'antenna che non si intende a nulla. Mi ha detto, ma si usi, non lo so, ne ho capo, e tutti i capi sono solo spezzoni per commutare, niente da fare. Attacco la collatore, batti la collatore, più, cazzo non si fermava più. Ha detto, ma una cosa, voi vedete che sono commutato l'antenna, non partire dal gomolo, qua tu c'hai la collatore automatico, altri 250, ti colleghi l'antenna diretta qui, e poi gli spezzoni li fai andare dove cazzo blu. Beh, una bomba, la pigliata se la montata, cazzo è un montinaccio, non servono a niente. servizi, boh, e come lo faccio male? Salve, che si tiene di culo, di culo uno? Un te cazzo diciamo, io su bar Babietto, un bel mamma in sala. Babietto lei? Poi dove ha messo questo cazzo diciamo, io su gol? Dì che su cazzo non è matto. Questo non lo capita, a tu. Babba trucco, babba quella cosa, Barba al culo? Mi sembra che si chiama Barba Pappa, una cosa del genere. Ehi, Isisio, non inizio. Sono le portachiavi che parlano, capito? Questa una le baci, l'altra, dici, chi sei già? Lui dice, a fare il genere. Ecco di clavo, non ci sto le coscienze, ma menti. Si attaccava le portachiavi, Una borsa di chi si fa morte, se vuoi pure che si mangiano le bambolotte a disco, c'erano il dischetto dentro, te lo ricordi? Io me lo ricordo, sì. Chi si ciccio bello, chi si chi? Una volta appunto delle batterie che ha fatto attaccato la due pinte e ci trovo un fumo e ci delle radio che facevano prima con gli spinotti. Io ho già attaccato il chip da pure la cosa della corrente, ragazzi. E mia sorella Ciccio Bello Negro, veramente hai scelto Ciccio Bello Negro, hai detto voi via zia, mamma aveva sbagliato, ma era piccolina. E lui a metà, cazzo la metà dove la lampada, la parecchina, cazzo faceva in tal bianco, è diventato giallo, cazzo sbaglia Ginesio. Si è spostato. Ma va. di esplosione, via. E poi come piace? No, scusate, ma qua chiamo Antone. Mia figlia, che c'è detto Antone? Opera. Attualmente a Nivolo. Quello ai me? Hanno era il periodo giù alla stazione che lavorava a Nicolo. L'ho procurato questo tardi in maggio. Però poi c'è delle cose, delle bibite giù nella specie di cantina, no, che avevamo lì alla stazione. E la mattina c'era mio fratello, no? E gli ho detto, Albe, ma fai una cortesia, dimmi, vai a prendermi un paio di aranciate, come c'è giocato giù in cantina, cazzo di piglia, le butta un paio di quei pezzari di magno, cazzo, va, poveraggio, cazzo, come è uscito, e è cominciata a farmi da, a pensare, ma perché non vuoi girare il coglione, ma che coglione, stronzo, ma culo, cazzo, va. E io se ve l'avevo fatto brutto la spara, se ti rammetti. Ma tu era omicidiale, cazzo. No, Mantomello, anche quando eravamo a Mantome, che eri a coso tu. Lì a coso, a fanculo, cazzo, era manicomio. Lì. Era la sera quando stavamo lì sotto. L'aveva fatta Giovanni. Giovanni aveva tirato quelle sigarette che dici tu, quelle finte, che le viene di coscia. Sì, no, quella della scossa era, l'avevo fatta portare io, mi si mettevano appoggiati a bancone la carta tutti quanti. Mi ha parlato Marco Mughi di quelli, della famiglia americana che l'anno scorso c'era presente, l'autodifesa. Come a banco le pigliavo schiacciavo il borsato, e vedi tutti brincando con la bibita in mano. Una volta io alla monta mai vista la vede brincante, ho preso e ci ho buttato un mestizio dentro con uno di quegli accendini, l'ho acceso uno di quegli accendini antinvento, che se ce l'ho buttato dentro il coso dove c'erano le suore, e io vedi brincante in aria. Facevano gli scherzi, ma quando facevano gli scherzi dovevano più di 50 cibi al giorno in quel bar, figurati. Io non facevo neanche in tempo di ragione neanche a mangiare, e il papà non mi detto altro, prima Alessandro, poi Gesuino, poi arrivava quello della frutta e verdura, che anche lui c'aveva il baracchino, poi c'era, come si chiama, arrivava anche Giampaolo Calvi, poi c'erano i figli, e poi vedeva il manicomio, Giannina, Angelo, eccetera, eccetera, Carlo Pisciacare, in pratica era il barco, e campato, per almeno 2 o 3 anni ha campato la CB. Facevamo un giro dei tavolini, non ci battavano i tavolini, tutti pieni di birra erano. A proposito, Antone, a proposito di Carlo, ma di una cosa, ma il padre di Carlo non si trovano, è morto, sì. Un bel tempo è morto. È morto da parecchio tempo il padre di Carlo. Infatti il bar ha preso lui gestione insieme a cosa Gianluario, ho capito. Dopo che è morto il padre. Perché io mi ricordo che si chiama Nino, è possibile? Che Nino si chiama, esatto, Nino Cabras, lì la roba di frutti li faceva da quello. E se no quello che gli hanno combinato quelli delle poste, cazzo. Un giorno sono entrati lì, gli hanno portato la busta di lumachine. E hanno detto, signore, ci dia un paio di birre. E lui gli ha preso della latte, dopo un po' altro come sta busta la queste lumachine si fece a mangiare. L'hanno fatto chiudere a mezzanotte e mezza. Ma guarda, li hanno combinato, li hanno combinato parecchia. Figurati, poi adesso la pigliate male il figlio, è sempre stato tranquillo, non ha mai rotto le balle, ma secondo me è una cosa impressionante, quando ti aveva bevuto, ti dava a 5 e ti mandava fuori. Anche perché, ecco perché ha avuto mi hanno fatto parecchi dispetti. Nel primo locale si mettevano a mangiare dentro, e un giorno ci avevano anche cagato dentro. In terra, figura di tu. Vabbè. Oh, vabbè, se ci siete riprendo dopo che vado apriamo le cinette in via Pascoli, perché qua il tabacchino in via Barzetta è chiuso. Se ci siete riprendo più tardi, là, ok? E a buona fumata allora. Oppa. Ok, oddio, non c'è problema. Il bar che c'è un edificio, così l'ultimo bar che c'è di fronte al manicomio, a sinistra, se non ricordo male. E ora poi c'è andata male quella via di tutto, non è mai attecchito quasi niente. C'era una cosa che è rimasto lì in piedi, il panificio, e la pizzeria è sparita dopo un bel po', la frutteratura altrettanto. Poi c'è stato molto difficile, l'unica cosa è rimasta ancora in piedi, che mi sembra sono 7-8 anni e anche di più, e l'unica cosa di cui non fatta e basta. Poi sono delle attività, tutto vuoto, tutto vuoto. No, mamma cosa vale che ti costi, non ha più compreso quello. Cazzo, la faccia di ragazzi ti costi. Lo strada, non mi ha sentito. Io vedo che venivano i ricoverati dei manicomi a bere, te lo dico di... quello che diceva tutti i calciatori dei mondiali. Partita per partita tutti dicevano, anche le squadre, chi c'era, chi non c'era, non ne guardava, non ne guardava manco uno. Perché lì si chiama Marco, era vicino. Poi c'era una villa con sciappette, finalmente si metteva di fronte, ti apriva le cose e diceva, ma per lui, dentro di un caldero io. Ma me che schifo faceva quella, cazzo. Gesù. Io già adesso successe di cose in quel bar. E poi fa fatto di CB anche, dentro al bar, io una di due, quando c'era quello, veniva, come si chiama, Gianni Vessore. Poi si è sdoppato anche Mario Manzo, gli dicono o di CB, tutti a parlarsi, sti a bobo giurito. Era con la ricchiera, con la tua, e tu il capo lì. Tu il capo. Tutti vengono lui a girare le balle, dove sei anche a me? Sono a casa, scendo io per accedere una cosa. E ora ti. Tutti CB, tutti lì. Quello che guadagnava col bar, ragazzi, era una cosa impressionante al mese. Solo dai CB. E se ne andava che siamo obbligati con Gianni Coso. Da Gippone e Gianni dopo due. Mamma mia, come sto? Cazzo, di guadagnare ci vedeva Gianni chi? Non è solo. L'ultima cosa mi sembrava che fatto chiudere all'alba di notte. Era proprio la bicchiera di Natale. Ha detto, ma fa quello se ci perdo. Ha preso, se ha chiuso la serranda, ha cominciato a togliere il tavolo in fuori. E l'ha già preso il conto, capo. Allora io ben veste. Perché ha cominciato a togliere sfumante. E taglio che c'era la vacca. No, aspetta, perché mi sono arrivato, mi fuori mi fate compagnia. Diciamo, ricordo. Nei tempi erano Antonio. Nei tempi. Aveva non solo di non battere il panettone, ma ci mancava di manco una bassa leva, trova di sbagliare. Io non lo so, ma l'altro giorno, prima di poco l'ha fatto questo bar, ancora non l'ho potuto aperto a ferro. A me se metteva la rinchiusa, 9,50. E la settimana scorsa ha fatto di inaugurazione, era venuto il sindaco lì, e ha detto, io la birra, dice no, birra chiusa non ero, c'è solo l'Heineken, vabbè, non mi metti l'Heineken, tanto mi ha tirato fuori l'Heineken piccolina. Lui mi ha detto, ma mi metto un cilindro, perché tanto, uno mi ha detto, non basta in due. Cazzo, l'ha fatto pagare 6 euro, poi sono uscito fuori, detto, tu l'hai finita con me, non me l'ha fatto nulla, me ne vado al circolo c'è di fronte, e lui se la trova in culo. Hai capito? Dopo ha fatto la migliorazione, ha preso e ha cambiato sistema di cosa, di vendita. Per un cigno e spine, ecco, deve guadagnare di più. E allora si vede a capo già. Lui è già morto lì, come ha fatto è già morto. Ma qual è il bar, quello che c'è dentro di foro? Sì, è quello che ha appena inaugurato dentro di foro, appena entri, sì. Dove la papà ci dice di cosa c'è. Ci sciughezzi. E fa delle cose in mano, voi ci mettiamo a fare i tuoi, capito? Per carità. Avanti, buon morì, di che ti è andato Giuseppe? Passo le sigarette. Non ti si può il capo di sigarette. Ma non andava così, cioè. Cazzo, due peroncini, 3 euro l'uno, ma buco l'endice. È un furto, Non è solo questo, no, così. No, organizziamo me che fa questi prezzi. Guarda che mi ha fatto pagare, c'è una regolazione, mi ha fatto pagare 3 euro per una bottiglietta. E adesso c'è il sindaco bevendo tranquillamente con la bottiglia di sfumata e tutti i dolcini, cose del genere, panini, panini imbottiti, tutta gratis loro. E tu, ma oggi ve la date? No, non ci si paga. Ah, va bene, gli ho detto, quanto devo dare? Sì, io ho detto, per avanti. Oggi è finito di vedere, perché non ci entro più, però fa culo. Quattro giorni prima sono entrato, ho 2,50 la bottiglia di vino, è andato anche bene, è andata la verità. Adesso si è aperto, dice, non ce ne sono più di Kinus. Ah, va bene, ho detto, non c'è problema. Non ci vado più, guardavo a Carlo, quando esco domani mattina, come faccio tutti i giorni, mi prendo una bella venita, qui l'ho seduto, mi piglio anche la pappa, se voglio, e mi diverto, pago anche di meno. Beh, fai bene, apri la vai. Vai lì, te ne vai al circolo. Se la pensi di costa anche di meno, questo vuoi 9,50 al circolo, no? Ma non so quanto viene al circolo, non ci sono mai entrato, anche perché io da quando sto lavorando lì non ci sono mai entrato in quei bar, capito? Per non perdere da nessuno. Io sono andato solamente il giorno della donazione. È il primo giorno che sono entrato, la verità, sono andato di alba, poi non ci ho più entrato, perché non mi piace a me farmi vedere dal comune che frequento quel bar, capito? Potrei magari pensare male. Dice, aspetta, se ne va al bar, viene bevuto che lavorare, quindi non mi piace. Se bevo, non bevo fuori, non me ne frega nulla, non mi vedo né nessuno, e sono più tranquillo, anche se per dire, no, 800 euro al mese non me ne frega nulla, ma almeno nessuno ce la dimmi nulla. Non lo sai come entrerai, evidentemente. Ma vedendo, io purtroppo non ci vado né al circo, soprattutto al circo lì, non ci vado per due motivi lì, capito? Perché lo sai come entrerai, niente, magari ti vedi una volta, non ti vedo una volta ogni motivo di papà e lì ci sono il piatto. Che sono della paglia, da due, grazie a ci dai in chiwi e ci manda in briaco, un affanculo. Così la pensano. E appunto per questo ci vanno loro al circolo, si prendono la birra, se la portano, capito, se la cuano. E se la bevono di nascosto dove c'è la legnaia, lì alla riposa, no? E quindi a me non mi interessa nulla, se c'è qualcosa che si sente male. Io non ci vado, manca soccorri, non mi interessa nulla a me, ma non si arrangiano. Loro sono cassi integrati, sono pagati dal comune, e quindi prendono 900 euro al mese e fanno 3-4 ore di più al giorno. Capito? Quindi non me ne fate nulla. Io so solamente per 3 ore, per 3 giorni a settimana, e se non c'è da bere qualche cosa me la bevo fuori, infatti vado a Carlo. La votazione fuori del posto di lavoro, posso bere come mi pare che piace, però dentro dove c'è il posto di lavoro, come se tu c'hai, per dire, lì c'è lo spaccio lì dove c'è il deposito tutto, quindi che un dato entra al bar e ti bevi per dire una birra. La gente è pulsata, capito? E quindi no, non mi va di frequentare quel posto lì. Nel circo hanno dato meno il bar che c'è lì, se va la prendo qua perché me la devo da casa, se no voglio c'è lì, con di vicino, che piglio due tre lattine e me la bevo, puoi cercarla, non me la frutti tutta. Vai, vai. Avanti Claudio. No, ma infatti è un'esagerazione, ormai i pezzi del bar sono proprio al casino, capito? No, non si può, nel modo più assoluto. No, sono diventati troppo esagerati. Io, ti ripeto, non ho mollato già da tantissimo tempo, però capita, essi in compagnia, cazzo, sì, in difficoltà, sì, più di 4 o 5, per bere una bibita, cazzo, ci volevo 20 euro, allucinante. Senti, passano pure, e questo è quello, no, però va a prendere al 5, no, andava con bene più, dateci qui sotto, va a spire, è a cosa per un cini. Lui la sogna per tanto, infatti sogna non ci fa quasi mai niente, un cane, sempre vuoto, vende solamente pasticcini e buona mattina, è solo qualche caffè quando vanno a prendere il pasto, no? Poi Diego non ho visto che non sta più vendendo, capito? Perché non c'entra più nessuno, è troppo caro. Una birra non succede niente. però vedete che guarda, cioè, sono stati troppi disastrosi, ho troppi stronza, troppe cose brutte, e allora la legge è anche giusta di fare quanto da me, tu, se tu stai guidando non devi fare, punto. E la gente ha capito di comprarsi la roba al supermercato adesso, tanto perché ho visto un sacco di gente si compra carta di birra direttamente dal supermercato, se la porta a casa, se la deve a casa. Il discorso è che non ci va più al bar dove, pardon, beve in famiglia e è più tranquillo, a me non mi prendono la patente. Guarda, mi compro tutti i mesi di drome, che non rischia niente. Avanti qua. Ma fate così. Dattemi 2 minuti che mi prendo la bustina dell'antifiammatorio. Arrivo subito. Già, poi fa anche problema. Ma anche quello c'è. Anche quello c'è da dire un po'. Che adesso magari mi si piace. Ma pure andavo tutto nel caso, me la visto a casa. Ma magari la persona anche una volta a settimana, così quando stavo lavorando con la gente. Rinunciano perché la patente serve, cioè andare a lavorare, c'è per tutto. Se poi non vede niente, c'è andata pure cantata. Sì, andava, sempre ci vanno i muratori, i cavieri, cose così, capito? Ma bevevano parecchio anche lavorando. Andavano a bere un'altra bottiglia. Poi adesso, ormai hanno compreso. Quando cominciava a fare i contentati, c'era la borsa, c'era a pigliare anche lo stipendio. Allora, si comprano le casse della birra, se le portano a casa, se le mettono in frigo, magari un sabato, quando finiscono di lavorare, se le vanno a casa, c'erano un bel pranzo, e si bevono 5-10 bottiglie di birra, tanto non li parte di due. Se sono in casa, quando vanno a vedere, quando sono accorti, più si addormentano, non succede nulla. A me non dovrebbe ingrassare il culo a nessuno. Ma è così che si sta andando avanti, purtroppo ci sono state delle cose poco serie, ma anche lavorando c'è anche sulla sicurezza, facciamo appena cose, adesso passano certe categorie, tipo dove si fa gli autisti, queste qua, passano a casa, passano, e quelli, no, adesso non mi ricordo come cavolo si chiamano, l'ufficiale sanitario, come cavolo si chiamano, e si fanno fare gli esami, si fanno fare, c'hanno il laboratorio mobile, soprattutto gli autisti che lo fanno fare, quelli che devono guidare camioni e cosa. Passano a caso, il giorno qualunque, passano, hanno i medici con gamba e cosa, prendono, si misurano se è bevuto, se è fanno gli analisi, tutto quanto, si rifiuti sono cazzi due. E adesso senti un posto di lavoro, ma cosa ti chiedono se prendo... se tu sei dipendente, se sei ansioso, se prendi i medicinali e se sei bevitore, capito? Se non ci rimo, devi stare almeno almeno 15 giorni per toccare ma nulla, manco un bicchiere di birra, perché l'acqua ti rimane intorno a 10 giorni nel sangue, quindi proprio per mantenere tutto. 10-15 giorni senza toccare nulla, una volta fatto l'esame che gli ha portato di più, quindi se te ti puoi anche bere per dire. Basta non ti perdere al bar, lì vicino a posto della borsa, se butti il duro. Forse non hai compreso, se non devi fare proprio, perché vengono a casa, possono venire lunedì, possono venire qualunque giorno, vengono a... io lo so da una persona, non lo so, perché non c'è, cioè, tra l'altro l'avrei fatto confermare che è così nella vita sua, cioè non lo sai tu quando vengono una sorpresa, vengono e ti fanno fare gli esami, non ti deve rifiutare. Ma questo non mi sento vivo a casa, la verità. A me se dovessero venire a casa e controllarmi il frigo, dico, ascolti, se vede qualcuno che vuole portare la birra, poi se io non le bevo sono proprio lì. Non le può mica lasciare senza bere, cosa vado? Al bar faccio le mani di aspetti. E quindi no. Tutta la salute. Questa cosa di fare in casa non l'ho mai sentito. Il giorno quando ti fanno il contratto, quello sì. Ti fanno due giorni prima, ti fanno un'analisi del sangue e ti controllano tutto. Se è vero quello che dichiari. Capito? Ma mi senti bene, ho detto ma a caso, vengono a caso nel tuo posto di lavoro, non a casa. Hai capito? Tu ti avvengono a casa tua fare un cazzo di voi tu. Vai. No, non ti controllare niente di nessuno, pure il magistrato nella tua casa. Lì nel posto di lavoro, vengono presto, per mercoledì, qualunque giorno. Vengono lì a caso, non a casa. Vengono lì e ti fanno gli esami. Ah, così sì. Ma te ne sembra portare la cosa. Che quella è la cosa giusta. Seguili se fai lavori tipo che sai di terrici, roba del genere, che vanno roba pericolosa, oppure nei pontici, quella è una cosa giusta, perché non puoi andare bevuto. Una volta si portava il picciattino, i muratori, bevevano il vino, tranquillo, nessuno diceva niente. Adesso quello non puoi più farlo. Perché c'è delle condizioni, fanno chiudere il corso, il cantiere, per legge, se fanno i controlli così adesso. Così, è stata una cosa giusta, perché se è un lavoro pericoloso. Potrebbe capitare l'estate, magari ti beve una birra, ti viene una 30-40 gradi ora, ti viene una congestione di quel tipo, perché fai... Se per te ti trova. Troppo lì a lavorare, già si sa che sta campando ore. Se rialzare un altro buon tetto, un altro buon tetto ci vuole. Bisogna stare molto attenti, anche se lo sai come te. Perché cioè, sono lavori che fatica di molta concentrazione. Capite poi che si fa il ghiotto. Poi ci sono le barriere, però... Quando mi metterò in piedi di mare e cose mi fai molto molto molto male. Ma avanti, grazie. Sempre a rischio siamo. Forse dovremmo, siamo a rischio. Come c'è che io ho saputo essere tutto indietro, provo a rischio, e cosa, perché appunto anche via, e cosa, magari... cosa ne so, perché non lo spandamento, cosa fa cosa di più. Intanto mi posso male, accertano che io ho bevuto cosa che sta, a me fa un culo, a me alla vita, mi fanno un culo a tanto. Certo, dici, è normale, perché tu devi essere, idoneo per il lavoro che stai facendo, non è quello embriaco. E pure tu lo vedi a un figliolo di una persona e chimica di Napoli, vedi la moto parcheggiata e non è che lo dico. Quando lavoravo qua da Osai, sapevo che per me vuoi da meglio. Mi invitavano i clienti, cazzo, ogni volta che andavo lì nel bar, cazzo, era geloso, usciva fuori. E tu vai a al bar, e a lavorare nei volti, mi diceva, ma tra scopa la cosa, tirami le balle, gli ho detto, io non sono stato assunto qua, io sono un esterno, mi dice, come hai capito? Sono i clienti che cercano di sopporti, i clienti mica vengono a cercare te, gli ho detto, e rimaneva zitto. Ma lì da te c'è il controllo della sicurezza, poi? Non c'è nulla, se stanno bevendo la birra alle 9 del mattino, del mattino. Capito questi tre che sono in casa integrazione, che li fanno lavorare, mettere le alcune, l'altra metà gli lavorano, non so, forse l'Ipsi, capito, e rimangono a fare 4 ore. Io mi sto 4 volte bevendo la birra, con le bottiglie della birra incluse in mano, ma la fresca presa dal circolo. Se ne vanno lì, si bevono la birra in due, hai capito? Si curano, dopodiché riprendono a lavorare, diciamo in mano male zumi. Quindi, figura che tu è pericoloso incontrare, siccome lì a Lipolo passano spesso ragazze a piedi per fare jogging, capito? E quindi si fanno tutte le cose da piedi col vento. Se sono corti sbaglio poco a poco la macchina di qualcuno di me. Oppure qualche cavallo che c'è, se non risolvo, lì è pericoloso comunque lì a Lipolo, c'è tanto di quel passaggio che non ho idea. Vabbè, però, lì ci vorrebbero i controlli, come ci sono dalle altre parti, se no è un casino, capito? Vabbè, in certi punti lo fanno, in certi posti. In certi posti lo fanno, in altri invece no, quindi non capisco perché loro devono essere avvantaggiati, capito, rispetto agli altri, non lo so. E l'altro dicendo, ma qua già fra 10 giorni ho finito e se la troncano in culo tutti e due. E quindi sono tranquilli, io quando mi faccio il lavoro, quando alle 11:15 piglio di bene in alto. Allora sai che niente, loro finiscono a mezzogiorno che fare e se ne vanno a casa. Danno appena 900 euro al mese e io a me danno solamente 300. Yes. Ma cosa c'è proprio la differenza? Figli di puttana sono qui. Da 10 minuti, poi stacco, sono tutta la sera qua dentro buttato, avremo un po' di sport se ce n'è, e poi vado alla nanna, tanto la pastiglia, la bustina ce l'abbiamo presa anche stanotte e si abbiglia il culo. Cucciolone, e non mi è tornato te compadre le sigarette. Papà, sono andato ben bugiato, cucciolone. Eia. Ma qui sono quelli che mi dà un bucciolone, è buco. Sai, le oggi. Cos'è? A Firenze. Capa. Antonio, ci sei passato anche tu, vai, buttami quando uno fuma e non c'è le sigarette, allora tu hai il balle, cazzo. Non è facile, no, Antonio. Sembra facile, ma non è. Io sono impazzito, per un po' di giorni ero un pazzo scatenato, poi dopo mi è passato. Perché è normale, cazzo di là, è normale tu, e dopo tanti anni non è che ti ho detto, hai avuto una grande forza, te l'ho detto, ti ho fatto i complimenti, hai avuto una grandissima forza. Però purtroppo uno che non ce la fa, è una rottura di palle. Quando rimane senza sigarette, io ad esempio, per non, ce l'ho sempre un pacchetto da 10 a casa, e quindi capita che magari non me ne compro, ne ho poche, e quindi la prendo da lì qualcuno. Però cazzo se mi mancano, che a me mi giro le balle. Capito? Ma non è che come ha fatto Giuseppe, motivo a comprarmi sigarette, non so più neanche uno, non fumo, però te non preoccupare, uno che è abituato è così, capito? Va bene signori, dai, io ne approfitto che c'ho il microfono, sono 11:15, e come vi ho detto prima, sono tutta la sera in radio, tutta la sera, grande, perciò mi stacco un po', se magari più tardi mi viene voglia riprendo. Se no, li tenetevi tutti salutati, Antonio Bombo, Giuseppe Leoncino, ci aggiorniamo domani. Tanto me lo stesso, stai lavorando tutti domani mattina, quindi buon lavoro, tocca a te in culo, peggio per te. Noi ci prendiamo il caffè domani. Ciao a tutti, buonanotte e a domani. Avanti Antonio, ascolta il finale e poi chiudo. Basta passare la casa di 11, ci prendiamo il caffè lì, se ne voglia. Ho già detto anche Leoncino, lo stesso. Se non è che ci vediamo direttamente da casa e ci vediamo qualcosa, non lo vediamo se ne stanno. Tanto io alle 11 quando esco sono lì. Ma no, per ci vediamo le prossime, allora, a domani. Avanti a tu. Ma buonanotte Claudio, ci sentiamo domani. Buonanotte, a domani alle prossime, ciao ciao. Avanti, Giuseppe. Buonanotte, dormi tranquillo. E lascia stare il braccio a una parte, capito? Se no, alza quel braccio a te qualche giorno te lo devono proprio rigessare. Amici, lo rigessate. Mi sei toccato le palpebre. Il caldo qua ce lo metto vicino al culo, così no, già dorme tranquillo al caldo. Vai a lasciare tu a Giuseppe, c'è mi volessi. No, non ho preso la mare, claro, non ho preso la mare, perché era una battuta qui, perché lo so che te col braccio ti fa male, però lo so, era una battuta, era giusto per chiudere in bellezza. Non sono fatto chiudere in bellezza, Giuseppe, ti fai gessare l'uccello, quindi sei a posto. Non ti piace se ti ingessano l'uccello, sai come te lo fanno? Te lo mettono dritto dritto, tutto il gesso ingessato, col cornicione fuori. E poi attacco la pompetta per pizziare. Pizza Giuseppe. Sì, ho capito, e già, vabbè, là. Buonanotte. Vai, ci aggiorniamo domani, Giuseppe. Ciao, buonanotte a tutti. E ci sentiamo domani ragazzi, vediamo se il giorno Giuseppe si sposta domani mattina, magari ci vediamo lì da all'ippodromo, voglio vedere cosa fai, ma cosa fai la cosa ai cavalli? No, devo da Carlo, vado cosa all'ippodromo, vabbè non sai, ma come l'ippodromo non esiste, sono lì da Carlo, ci vediamo direttamente lì, ma dopo non faccio se i cavalli io. L'unica cosa che ci fanno fare è pulizia, raccogliere erba, raccogliere mondezza, di quella che fanno, lo dicevano prima, capito? L'altra volta ci hanno fatto pure dove c'era un barbone, figurati, e ha girato con questo barbone a cosa faceva? Dice il costore, a me pare che veniva a trombare, perché ci ha trovato una catezza con una ragazza, e tanto buona, e poi di bene tutti era. Hai sentito Giuseppe? Io pensavo che stavano la spalla con i cavalli. Davvero, io pensavo che faceva altre cose, Antonello, dove sono i cavalli. Attenzione, Antonello, che quelli sono sbarrati lì. No, non ci vanno io, non stanno i cavalli, anche tu. Ma manca pulirla, ricordo di tu. Tutta altra cosa faccio, non vado io a fare pulizia che toccano gli altri. Ma me la putti tutta. Io la con mansione è totalmente diversa, e quello faccio. Capito? E a cavallo ci vanno gli altri, non la fotte nulla. Se ci sono ragazze magari da montare, questo del cavallo già me ne monto. Tanto c'è un passaggio di lavento. Ogni giorno vengono in 10, 15 ragazze a corpo, le vedi tutti i miei pantaloncini abbellati. Pronto, c'è molti luci, no? Qualche giorno te lo faccio vedere, ci facciamo ti faccio fare un giro lì. Non vedi ragazze correndo lì, la mattina. Facciamo alle 7.20 mi vivo da vedo fino alle 9.30, poi non vedo dove spariscono, poi c'è troppo caldo. Dai, ciao, buonanotte a tutti, a domani. Ci sentiamo domani mattina, Giuseppe. Via, ciao, ciao, ciao, ciao. Va bene, dai, signori, sei Guarrotta, vi auguro la buonanotte a tutti i componenti del canale 10. Buonanotte a tutti quanti, è un buon tabacco per domani a tutti quanti, dai, ciao, quelli per me. Ciao, ciao, buon crevetti, buon tutto, buonanotte, ciao, zio Claudio, buonanotte a te, e beh, buon pugno. Buonanotte a tutti. Eia, ciao a te, buonanotte a te. Ciao a te Antonio, buonanotte, ciao Giuseppe, ciao, ciao, ma tu vuoi mandare un cielo da notte? Aspetta ai cavalli di 16 mattina. Avanti, ok. Non so da finire Antonio. Allora, tutto a posto, pompi, odio. E è tutto a posto, tutto a posto. E tu a passeggio lì? Io passeggio quattro zampe. Qui la notte vicino a casa tua, cosa abbiamo sistemato in alto? Metti così come che faccio d'inverno, sai, soprattutto ti serve un pochettino un palo che conviene, dato che c'è ancora il punto per poter salire da lì con la scala, visto che c'è il ponteggio nel tuo fianco. Sì, se no andiamo a posto. Sono una bacca di tipo un comunque è bassa, non è alta, sono neanche 2 metri di subalo di un lato. 4-5 metri di paro e da lì qualche campo già si busca da qualcuno. Gli mette la rampa di vedere come tira su quella geggio. Ah, non è che balla di 20 da lì. C'è problema. Quella si può sollevare, quella si può sollevare, il paro è dove sono io basso, quindi. Io lo so. Veloce. Gli acquadri l'ho salutato, signorette, se la sono. Non mi ha risposto, comunque, buonanotte a zio Claudio pure. Ehi, ci abbasso no, Claudio, ci ha rifatto tutto il giorno con la china che è andata in distanza, non ricordo. Sì, tu una carrea, salma. Ecco, già vero. Sì, quello già vero. No, devo trovare 5 minuti liberi per mettermi a posto tutte le cose per l'inverno perlomeno, per lasciarlo a posto. Se volete, veramente si è mollato il coso, la vitina non è stata bene, ci siamo andati a vedere, c'era in terra di senz'altro. Attenti, buschi 3 pezzi di alluminio lunghi 2,75 m. E ci metti quella che è così, non prendi alluminio, già non vendo, va bene come cosa ho cantato. Quindi io lo so, io sono lì, non sono cascate per terra, già sono sopra il tetto, diciamo. E già va bene, se le recuperiamo, le mettiamo. E a me non ci metti così forte, poi adesso l'inverno parli di nuovo con l'amica nostra, eh? Sì, allora qui, lui. E adesso sta lavorando senz'altro la partita della Spagna, lì. Sta a vedere cosa fa, quindi impegnato la barattina, un pezzo ci sta entrando. Quando finisce questa grata degli europei, quella che già rientra. Sì. Comunque la Croazia è andata male, visto la Isma. Qualche cosa gli va a fare la Croazia. Io sto pensando che non ci facciano vincere la partita cavolino, me. Capito? Sto pensando quello, che in pratica riusciamo a passare per i quarti di finale con motivo in me. Non è competente, lasciamo aperto, non è competente, e tale restiamo, sa che è un aiuto, per carità. E qua non abbiamo fatto nulla, proprio. Nulla, ma lo tutti sta pensando solo a trombare e basta lì, non sto facendo altro. E tutte le notti stanco, tutte le notti tutti i giorni stanco, e ho tanto. Non c'è più il cervello, non è più concentrato, quindi lui ogni sera quando finisco un coso qui, se non ci vuole fare quello che mi interessa quello, 5 per volta, e però si prende le dirette e butti dove. Perché su e sogno, fate su, ma va a bocare, devo mettere anch'io a salutarvi, dai, se no, o io, ciao, dai, buon certo guardate qua, dopo tutto, e ci si riascolta, dai, devo mettere c'era la parte, dai. E so che anch'io, non è che mi ha fatto le 7 e 20 non uscirà qua. Quindi altro le 5 e mezzo, sì, ci sentiamo domani, eh. Buonanotte, altro, buon tutto, a domani. E io, buonanotte, buon tutto, abbiamo tempo, ci si ascolta, ciao, ciao, ciao, ciao.